Facile, da casa sembra tutto più semplice, da casa ti crei la clarità, da casa c'è chi ti dà ragione, ti dice che sei un mito e un campione, ma se stai male nessuno ti cercherà, si fa presto a giudicare, tutte brave persone pronte a condannare. I giovani d'oggi non hanno voglia di lavorare, gli immigrati vengono solo a rubare. Da casa sembra tutto più facile, da casa sembra tutto più semplice, da casa ti crei la tua realtà. Da casa senti ciò che vuoi sentirti dire, ti senti forte e puoi reagire, ma il tuo capitano non ti citofonerà. Fai quello che ti ordina il tuo padrone, è creata da altri la tua opinione. Fai la guerra a chi come te non riesce a campare, fai lo spia per chi ti continua a sfruttare. Da casa sembra tutto più facile, da casa sembra tutto più facile, da casa sembra tutto più semplice, da casa ti crei la tua realtà. Da casa sei ricco e potente, ti senti superiore alla gente, ma offline nessuno ti seguirà. Con buon senso dispensate odio, indignazione e dissenso, vi sentite liberi solo quando acquistate, vi sentite sicuri solo se sparate. Da casa sembra tutto più facile, da casa sembra tutto più facile, da casa sembra tutto più semplice, da casa ti crei la tua realtà. Pensi che la tua opinione conti veramente, solidarietà, amore, cuore, incidente, se non fai niente, mantiene rubando, presto si autodistruggerà.